Economia. Con Deborah Rusciani. E buonasera a tutti da Deborah Rosciani, eccoci insieme per l'ultima puntata della settimana di Focus Economia in questa giornata dell'Epifania. Anche oggi le notizie non ci sono mancate, ce ne sono molte che arrivano dagli Stati Uniti, sono tutte rilevanti perché, come abbiamo annunciato più volte nel corso della settimana, era uno degli appuntamenti più attesi di questa prima settimana del 2007, il rapporto sull'andamento del mercato del lavoro americano in dicembre. In realtà il dato è importante perché si consente di fare un bilancio praticamente di tutto ciò che ha potuto fare negli ultimi 8 anni Barack Obama, per cui c'è un bilancio molto più complessivo. Diciamo che la statistica di dicembre ha un valore più che altro simbolico, perché da quello che poi vi racconteremo, appunto, vi potrete rendere conto come l'amministrazione Obama riesce a consegnare a Trump un mercato del lavoro molto robusto, molto in salute, un regime quasi di piena occupazione. E oggi appunto c'è stato un via vai naturalmente di commenti rispetto a questa statistica diffusa nel primo pomeriggio. Ne parleremo diffusamente nel corso della trasmissione. Diciamo che il dato aiuta relativamente le borse, è stata una settimana abbastanza tranquilla direi sui mercati, con l'eccezione di Milano che invece archivia questa prima settimana del 2007 oggi con un rialzo di circa lo 0,14% in questo momento. Per gran parte della giornata c'è stato un andamento negativo, Milano è arrivata a perdere anche mezzo punto, ma se le cose terminano così, questa prima settimana dell'anno si chiude per Milano con un rialzo di circa 2,5 punti, quindi si recupera un po' quello che è stato perso l'anno scorso. Lo abbiamo ricordato spesso in questi giorni, Milano è stata la peggior piazza d'Europa con un bilancio negativo per il 10%. Perché questo è il punto, faremo naturalmente i casi di Piazza Affari, oggi ancora una volta i titoli più gettonati, il Banco BPM, Salvatore Ferragamo e tutta la galassia Fiat. Fiat in particolar modo sul finale continua a crescere, adesso segna più 6,5 punti, ha ricevuto negli ultimi giorni diverse promozioni di giudizio da parte di diverse case di investimento, oggi viene inserita nella cosiddetta lista dei titoli appunto su cui investire con convinzione, la convention list, secondo appunto Goldman Sachs, e il titolo ne beneficia portando con sé anche la holding del gruppo Exor che guadagna 3,5 punti, e poi vedremo naturalmente anche i peggiori. Di quali altri temi parleremo nel corso della trasmissione? Allora, se questa settimana abbiamo fatto grandi ragionamenti sull'andamento del mercato azionario nella prima settimana dell'anno, abbiamo trascurato un po' invece i titoli di Stato, l'andamento del mercato obbligazionario è ritornato un pochino a crescere, lo spread fra BTP e Bund sicuramente si fa sentire l'effetto dei dati sull'inflazione che sono stati diffusi negli ultimi giorni, soprattutto quello tedesco preoccupa, circostanza che naturalmente forse impone un pochino un nuovo cambio di rotta nell'azione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Di fatto il rendimento sul BTP decennale ritocca il 2%, proveremo a capire con un collega del Sole 24 Ore cosa significa questo, da che cosa è determinato questo movimento, soprattutto qual è nel programma anche di aste dei titoli di Stato del Tesoro italiane. Settimana prossima ce n'è già una da 7 miliardi di bot annuali e quindi c'è una prima prova molto rilevante appunto per il tesoro italiano. Parleremo poi anche di un'altra crisi in arrivo industriale, quella di Alitalia, l'ennesima che racconta la storia della compagnia che ormai chiamare compagnia di bandiera non vale più la pena perché come sapete è controllata al 49% da Etihad, e però insomma c'è un programma, un nuovo massiccio piano di ristrutturazione, forse una nuova divisione in due compagnie, una che si occupi solo di voli low cost e l'altra di tragitti a lungo raggio, si fa un gran parlare di possibili migliaia di esuberi, forse 4.000 su 11.000 dipendenti. Lunedì l'azienda incontra il governo, poi le organizzazioni dei lavoratori, ma insomma in cassa ci sono pochi soldi, il bilancio del 2016 è pesante e negativo e quindi si deve correre di nuovo ai ripari e ne parleremo più tardi. In tutto questo naturalmente come sempre potete scriverci al 349-238-6666 i vostri messaggi, riceviamo sia gli sms sia i messaggi su WhatsApp. Adesso rapidamente le altre notizie in breve. Allora, questa mattina la giornata si è svegliata con un bel po' di fermento e nervosismo sui mercati valutari. Perché? Perché ha preso una decisione la Cina che ha alzato dello 0,9% il tasso di riferimento dello yuan rispetto al dollaro. Si è trattato del più forte apprezzamento, del più forte aumento giornaliero degli ultimi 11 anni. E questo è stato un segnale che Pechino ha voluto dare per manifestare gli sforzi che sta facendo per arginare il deprezzamento della sua valuta. La banca centrale cinese ha fissato a 6,8668 yuan per un dollaro il valore perno attorno al quale il renminbi è autorizzato a fluttuare rispetto al biglietto verde, con un margine di circa il 2% in rialzo o ribasso. E cosa c'è dietro questa decisione? Sembra che ci sia un suggerimento di una grande banca d'affari, Goldman Sachs, che in una lettera inviata ai propri clienti afferma che è in arrivo il momento buono per scommettere contro la valuta cinese. Fra le cause appunto dell'inversione di rotta dello yuan, anche le misure restrittive sul controllo dei capitali che sono state di recente adottate da Pechino. I dati americani, dicevamo che poi commenteremo largamente. Allora, intanto l'economia americana nel mese di dicembre ha creato 156.000 nuovi posti di lavoro, sotto le attese degli analisti che invece scommettevano su 175.000 nuovi posti. Peraltro un dato che era stato parzialmente anticipato anche dalla statistica dell'agenzia appunto privata ADP. Il tasso di disoccupazione a sua volta è salito al 4,7% dal 4,6% di novembre. In realtà quello che più ha sorpreso è stato l'aumento dei salari appunto orari su base annuale più 2,6%. È salito anche, in questo caso però ci riferiamo al mese di novembre, il deficit commerciale americano più 6,8% a 45,2 miliardi di dollari dai 42,4 di ottobre. Sono in calo le esportazioni in quel mese, mentre sono in risalita le importazioni dell'1,1% per 231 miliardi di dollari. Ma ritornando appunto sul mercato del lavoro, sentite qua che cosa significa archiviare il mese di dicembre con questi dati. 75 mesi consecutivi di crescita del mercato del lavoro americano, la serie più lunga dal 1939, si chiude così l'era di Barack Obama. Il presidente ha assunto l'incarico alla Casa Bianca nel gennaio del 2009, quando il tasso di disoccupazione statunitense era al 7,8%. All'inizio della sua presidenza, momento difficilissimo, ricorderete, eravamo all'indomani del crack di Lehman Brothers, una crisi finanziaria e poi che si è trasferita all'economia reale pesantissima. All'inizio della sua presidenza la disoccupazione statunitense è arrivato al 10%, e ribadiamo, a dicembre si è attestato al 4,7%, per cui pensate che risultato. Il 2016 si chiude con 2.160.000 posti di lavoro creati, in rallentamento comunque rispetto al 2015. Qualche dato che oggi è arrivato dall'Eurozona. Allora, abbiamo avuto un balzo dell'indice di fiducia a dicembre, un balzo che peraltro ha superato ampiamente le attese e ha visto questo indicatore portarsi ai massimi da marzo 2011. La risalita vede questo indicatore portarsi a 107,8 punti dai 106,6 di novembre, contro attese appunto per un rialzo un po' più timido. A fare da traino, dicono gli operatori, le mosse della Banca Centrale Europea sull'ampliamento del quantitative easing, in grado di consolidare la ripresa dell'inflazione in un anno caratterizzato appunto dall'incertezza politica. Poi in realtà l'ampliamento del quantitative easing, come sapete, è temporale, perché se andiamo a guardare l'ammontare dei titoli di Stato che la BCE comprerà ad aprile in avanti, si ridurrà di circa 20 miliardi. Un altro dato dall'Europa: il commercio al dettaglio nell'Eurozona è calato dello 0,4% a novembre rispetto al mese precedente, quando invece aveva segnato una crescita dell'1,1%. Rispetto al novembre dell'anno prima la variazione è positiva, più 2,3%. Lo ha comunicato oggi Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo. Nell'Unione Europea nel suo complesso il calo mese su mese è stato dello 0,1%, più 3,4% la variazione annua. Calano in Germania le vendite al dettaglio. Anche qua, questo insieme all'inflazione è un dato che viene mediamente abbastanza osservato, meno 1,8% a novembre, ma anche gli ordini di fabbrica sono risultati in discesa, meno 2,5 punti, eppure risultano dati in miglioramento su base annua, più 3,2% e più 3%. Per il mese in questione gli analisti invece si aspettavano un calo dello 0,9% per le vendite e del 2,4% per gli ordini di fabbrica. Qualche notizia dall'Italia. Vibo Valentia è la provincia italiana con il tasso di occupazione più basso Appena il 35,8% nella fascia di età compresa fra i 15 e i 64 anni, mentre Bolzano si conferma quella con il tasso più alto, 71,4%. Prato è la provincia con la percentuale più alta di residenti immigrati, 20%, mentre Crotone registra il più alto tasso di disoccupazione in generale, il 32,2%, in pratica il triplo della media italiana. Cosenza è la città con il più alto tasso di disoccupazione giovanile femminile, pensate, 84,4%. Sono alcuni dei dati contenuti in un report della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che ha elaborato dati Istat sul 2015. I consulenti del lavoro fanno anche un focus sul lavoro immigrato nelle grandi città, sottolineando come il tasso d'occupazione degli stranieri sia mediamente, nei 13 grandi comuni considerati, superiore di 9 punti rispetto a quello degli italiani, e il divario è particolarmente rilevante nella città di Napoli. I voucher, ne abbiamo tanto parlato in questi giorni per tutte le varie prese di posizione dei sindacati, per la questione anche referendaria su cui deve pronunciarsi la Corte Costituzionale sull'ammissibilità, per quello che ha detto ieri l'Avvocatura di Stato e poi anche per il fatto che invece i voucher vengono utilizzati anche dagli stessi sindacati per impiegare la loro forza lavoro, almeno certe tipologie di professionalità, ma questi rappresenterebbero solo lo 0,3% del monte ore complessivo lavorato in Italia e per questo non vanno demonizzati. Lo sostiene la CGIA di Mestre, che ha analizzato l'utilizzo di questo strumento nel mercato del lavoro. Nel 2015, ultimo dato disponibile, a fronte di 29 miliardi di ore lavorate, nel 2015 per appunto da tutti i lavoratori dipendenti presenti in Italia, la CGIA ricorda che 1.300.000 persone sono state impiegate con i voucher per un numero di buoni lavoro riscossi pari a 88 milioni, per cui percentuali che vanno considerate con assoluta tranquillità, dice la CGIA di Mestre. L'ultimo tema, allora, il maltempo. Ne abbiamo parlato anche questa mattina a Cuore e Denari. Con freddo e gelo arriva appunto naturalmente tutta una serie anche di problemi. Arrivano anche una serie di problemi come per esempio quelli che riguardano le colture di tutta una serie di tipologie di ortaggi. Grossi problemi appunto per l'ortofrutta italiana, che naturalmente a seguito delle condizioni del tempo hanno visto l'impennata naturale che si verifica sempre in queste circostanze dei prezzi. Sentiamo che cosa ci ha detto a questo proposito questa mattina Giorgio Mercuri, il presidente dell'Alleanza Cooperativa Agroalimentare. Ci dobbiamo aspettare sicuramente i prossimi 20 giorni con un calo della presenza di verdure sul mercato e naturalmente con prezzi che aumenteranno. Certamente avremo un aumento almeno del 30% sugli scaffali. Siamo passati da temperature elevate di 10 giorni fa a un calo drastico delle temperature che si sta concludendo con questo ulteriore abbassamento, addirittura scendendo sotto lo zero. Con queste temperature noi avremo grossi danni su alcune colture in particolare, certamente verrà meno la presenza di carciofo sui mercati, verrà meno la presenza di finocchio, perché sono colture che appena si scende sotto lo zero si hanno danni irreparabili. Sono produzioni che non troveremo più su questo territorio e che naturalmente verranno tolte anche dallo scaffale. Troveremo carciofi egiziani, carciofi di altri paesi. Per quanto riguarda broccoli, cavolfiore e altre brassiche, naturalmente dovremo attendere che passano queste temperature per capire se ci sono danni anche lì reversibili oppure c'è soltanto un ritardo nella maturazione del prodotto e quindi nella produzione. Quando abbiamo queste difficoltà il produttore non porta a casa nulla, perché sostanzialmente aumentano le attività in campagna per la raccolta del prodotto, c'è più disagio, c'è più costo nella raccolta, ma soprattutto c'è anche del danno e quindi si riducono le produzioni, le rese medie per ettaro. Stiamo vivendo un periodo difficile perché non abbiamo più le stagioni, passiamo da alte a basse temperature in momenti molto brevi e questo naturalmente non ci mette in condizione di poter tutelarci. Attenti a quello che acquistate, controllate sempre l'origine del prodotto e soprattutto controllate che ci sia l'origine sul prodotto, perché troppo spesso qualcuno dimentica di metterlo, quindi chiedete questo. Per quanto riguarda, è chiaro, non cercate prodotto che non c'è, perché cercare il prodotto che non c'è significa soltanto innalzare i prezzi. Abbiate anche la capacità di valutare che in questo momento è tutto più difficile ed è chiaro che questo aumento dei prezzi è giustificato da questi aspetti qui, non è un aspetto speculativo. cambio di colonna sonora, come sempre succede e come sapete bene, ci introduce anche il cambio di argomento. Il primo approfondimento di oggi che facciamo con un collega che non viene a trovarci da un bel po' di tempo e ci mancava anche, Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Buonasera Max. Buonasera, grazie a voi e ad ascoltatori. Eccoci qua, chi lavora quando per tutti gli altri è festa, però d'altronde, come diciamo sempre, c'è questo motto, questo proverbio ricorrente nel mondo della finanza: il denaro non dorme mai, per cui dobbiamo un po' monitorare quello che succede se è festa a casa nostra, altrove non c'è, per cui il denaro circola. Allora, tema che affrontiamo con Maximilian, ne scrive anche oggi sul Sole, il tema dell'andamento del mercato obbligazionario, perché abbiamo enfatizzato a lungo in questi giorni come sia andata abbastanza bene Piazza Affari, che riesce, se si conclude così la seduta, ad archiviare la settimana, questa prima settimana del 2007, con un rialzo di circa 2,5 punti, un po' meno brillanti le altre borse europee, però sono andate bene per tutto il 2016, mentre Milano è stata negativa. Molte storie molto brillanti a Milano, alcune banche, Fiat e quant'altro. Sul mercato obbligazionario abbiamo detto poco, lo abbiamo un po' trascurato. Abbiamo fatto qualche ragionamento un paio di giorni fa, quando Maximilian abbiamo appunto riportato ai nostri ascoltatori i dati sull'inflazione riferita al mese di dicembre, sia per quello che riguarda l'Europa, sia per quello che riguarda la Germania, che è stato forse il focus più interessante, anche se poi noi abbiamo guardato più tutto il tema della deflazione italiana, non succedeva dal 59, quindi ci è piaciuto di più enfatizzare questo fatto. Invece questo spread di inflazione tra Italia e Germania si riflette anche poi sul tema obbligazionario, sullo spread rispetto appunto tra BTP e Bund, e abbiamo notato dei movimenti interessanti in questi giorni. Allora faccio un po' un piccolo approfondimento su questo. Cosa sta accadendo? Perché vedo che il BTP si riporta ad un rendimento intorno al 2%. Ci dobbiamo allarmare? Ma non è niente di allarmante, le soglie hanno sempre un significato relativo, insomma, i numeri tondi. Il 2% è stato superato anche a dicembre, però è sintomo di una certa tendenza. Il 2015, almeno per più della metà del 2015, insomma fino ad agosto, a settembre, è stato caratterizzato da rendimenti dei titoli di Stato italiani ed europei in discesa, e che vuol dire prezzi in salita, ricordiamolo. E poi qualcosa è cambiato qualcosa tra agosto e settembre, è cambiato ancora di più a dicembre, e adesso, insomma, è cambiato perché i rendimenti hanno cominciato a salire, nonostante la Banca Centrale Europea, ricordiamolo, stia continuando ad acquistare i titoli di Stato. In questa maniera tende ad alzarne il prezzo e a calmierare i rendimenti. Qualcosa è cambiato, e qualcosa che ci porta a dire che il 2017 potrebbe essere un anno di svolta per tutti i titoli obbligazionari. Non stiamo parlando soltanto di quelli dell'Italia e dell'Europa, ma a livello globale. Certo, anche perché non ci dobbiamo dimenticare quel super effetto che si è visto subito dopo l'elezione di Donald Trump, con il famoso irripidimento della curva dei rendimenti appunto dei titoli a lunga scadenza, no? Un movimento che non si vedeva da un po', che è stato proprio enfatizzato. Proprio a questo proposito bisogna ricordare che a livello globale, lo ricordavamo un paio di giorni fa proprio sul quotidiano, sul Sole 24 Ore, la tendenza all'abbassamento dei rendimenti dei titoli obbligazionari in generale, ripeto, a livello globale, va avanti addirittura da 35 anni, dal 1981, subito dopo gli anni 70 della grande inflazione. L'inflazione e i tassi elevati hanno avuto un punto di svolta a inizio del decennio successivo. Da allora non hanno fatto quasi altro che scendere a livello globale, ricordo. Poi ci sono stati dei momenti di tensione, noi ricordiamo i momenti di tensione a danni nostri del BTP e in generale in Europa, però generalmente si parla di una fase di mercato rialzista, il mercato toro per i titoli di Stato, che potrebbe però concludersi proprio in questo 2017. Anzi, il punto di svolta è stato appunto, stavo ricordando, tra la fine dell'estate scorsa e i primi di autunno. E l'elezione di Trump, che tu hai ricordato poco fa, è stato un altro elemento che ha un po' dato un'accelerazione a quella tendenza di ripetimento della curva, e e di salita dei tassi delle obbligazioni, soprattutto su lunga scadenza. Questo perché sia negli Stati Uniti e in parte anche in Europa di riflesso, nel resto del mondo e in Europa di riflesso, si sta pensando che Trump potrebbe dare un'accelerazione con una politica fiscale molto molto espansiva, un'accelerazione alla crescita, potrebbe provocare inflazione che peraltro un po' si è vista anche nei dati del mercato del lavoro che citavate in precedenza, con l'aumento dei salari appunto. Questo a sua volta può portare a un atteggiamento più rigido delle banche centrali, parlo della Banca Centrale degli Stati Uniti, che potrebbe alzare i tassi dopo averlo fatto a dicembre di quest'anno, a dicembre 2015, potrebbe alzarle tre volte nel 2017. Diciamo che tre ne ha promessi, forse potrebbe essere costretta ad aumentare questa cifra. Oppure a diminuirla, questo dovremmo vedere. Non facciamo nessuno più fa previsioni. Comunque l'idea è che la Banca Centrale degli Stati Uniti potrebbe essere più rigida, e poi, e qui veniamo al discorso europeo e dell'Italia, la BCE potrebbe invece potrebbe un po' frenare il suo piano espansivo, quello che viene notoriamente chiamato come quantitative easing. Già in parte un pochino l'ha fatto a dicembre, ha annunciato che sì, continuerà a acquistare titoli di Stato ed altre attività, ma non fino per 80 miliardi al mese fino a marzo, e poi per 60 miliardi da marzo a dicembre. Citavi in precedenza nessuno il dato... Nessuno lo vuole chiamare tapering, sempre per utilizzare questi termini, però in realtà di fatto forse un po' lo è. Qualcuno sta cominciando a pensare, se non proprio all'interno della Banca Centrale Europea, ma quantomeno sul mercato, a una strategia di uscita da queste politiche ultra espansive delle banche centrali, della Banca Centrale Europea. Exit strategy era da un po' che non la sentivamo. Però io ho detto strategia di uscita, attenzione, ho parlato almeno in italiano. No, ma era solamente per rimutuare. Senti Maximilian, l'ultima domanda, poi ti lascio intanto. Ripartono la prossima settimana le aste dei titoli di Stato in Italia. Il primo collocamento del nuovo anno è un'emissione di botta a 12 mesi, 7 miliardi, e poi ce ne sono altre nei giorni successivi, non conosco gli importi, ma sono in programma aste per BTP a 3-7 anni. Sarà un anno impegnativo per il Tesoro italiano da questo punto di vista? Sì, esatto, sarà un anno molto impegnativo. Ci sarà ovviamente anche qui il sostegno indiretto da parte della Banca Centrale Europea, che acquisterà molti titoli italiani e tenderà comunque ad agevolare il compito del Tesoro. Va detto che il Tesoro sarà impossibile, voglio sbilanciarmi, molto altamente improbabile che si ripeta l'exploit del 2015 dal punto di vista del 2016, scusate, dal punto di vista del Tesoro, perché il prezzo medio di emissione, il valore medio del tasso all'emissione di titoli di Stato che sono stati appunto immessi sul mercato è sceso al minimo storico dello 0,55%, e questo qui sarà con la tendenza in atto sui titoli di Stato a livello globale, il rischio di inflazione a cui accennavi in precedenza, che potrebbe far sì sicuramente sta già facendo arrivare moltissime critiche da parte della Germania e della Banca Centrale Europea, tutto questo movimento potrebbe innalzare i tassi, se non di tanto, anche se basta pochissimo per non avere le stesse condizioni per il Tesoro che siamo visti nel 2016. Va detto che le condizioni, e qui parlo ancora di tasse emissione, cioè quindi soldi che in realtà vanno a pesare sul bilancio italiano, le condizioni sono ancora estremamente favorevoli, proprio perché la politica della banca monetaria della Banca Centrale Europea rimane ultra espansiva, e perché le tensioni a livello politico sull'Italia, e questo è un altro fattore che conta, sono per il momento stabili. Insomma, questo ultimo fattore, qui concludo, noi lo misuriamo sempre la differenza tra i nostri titoli e quelli spagnoli, c'è uno spread anche tra Italia e Spagna oltre che con l'Italia e Germania, è salito sul decennale a circa 40 punti base proprio attorno addirittura poco prima del referendum costituzionale, poi adesso si è un po' calmato e rimane a 30 punti base, per cui vuol dire che da questo punto di vista le tensioni sono stabili. Bene, avremo tanti temi di cui parlare quest'anno. Maximilian Cellino, grazie per essere stato con noi, grazie, buon lavoro, buona serata. Buona la pubblicità serata. E torniamo tra pochissimo. Focus Economia. Allora. Allora, 75 mesi consecutivi di crescita del mercato del lavoro, la serie più lunga dal 1939, con il dato di dicembre si chiude l'era di Barack Obama per l'occupazione. E allora, lo abbiamo anticipato anche prima, il presidente Obama ha assunto il suo incarico alla Casa Bianca nel gennaio del 2009. In quel momento stava esplodendo letteralmente in tutto il mondo la crisi finanziaria legata ai subprime e non solo. In quel momento il tasso di disoccupazione era al 7,8% negli Stati Uniti. Non era tra l'altro neanche il picco massimo, perché poi nei mesi successivi arrivò al 10%. A quale situazione siamo in questo momento? A dicembre 2016 l'economia americana si attesta con il suo tasso di disoccupazione al 4,7%, era anche migliore a novembre 4,6%, e lo scorso mese l'economia americana ha creato 156.000 posti di lavoro. Sotto le attese, gli analisti pronosticavano una crescita a 175.000 posti, ma tutto sommato non si può certo dire che non abbia fatto tutti gli sforzi per consegnare un mercato del lavoro in piena salute a Donald Trump, Barack Obama per l'appunto. Marco Valsani del Sole 24 Ore, ti risentiamo volentieri per il secondo giorno consecutivo, ma vale la pena fare un'analisi approfondita di questo dato, proprio perché è anche un dato simbolico, visto che si chiude l'era Obama per il lavoro. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sì, allora diciamo che lui sicuramente ha assunto la presidenza in un momento talmente drammatico che non si poteva che risalire, ci è messo un po' di tempo naturalmente, quindi sicuramente anche le circostanze, però non era poi così scontato che portasse il tasso di disoccupazione appunto negli Stati Uniti a questi livelli, più che dimezzato praticamente dal picco massimo. Insomma, cosa si dice negli Stati Uniti sul dato diffuso oggi? Certo, diciamo, il giudizio generale è che si tratta di un dato solido, ecco, solido è la parola, diciamo così, lo slogan diffuso oggi sui mercati, che comunque appunto hanno preso positivamente il dato, e anche tra gli analisti e gli economisti. Come dici tu, anche un dato simbolico, perché comunque sottolineato con la Casa Bianca così di dare il proprio commiato a due mandati al governo, Barack Obama, 8 anni di progressi, come ha sottolineato. Marco, senti, non ti sentiamo bene, ti sentiamo a tratti, riproviamo a ripristinare il collegamento telefonico, perché così riusciamo a fare un ragionamento di miglior qualità. Anche d'altronde, se in radio non funziona il collegamento telefonico e gli ascoltatori non riescono a sentire, non va bene. Adesso vediamo se al volo riusciamo a sentire il collegamento, peraltro a corredare un po' questa statistica di dicembre, appunto, come dicevo, siccome ha un valore simbolico, visto che ci racconta un po' tutto quello che ha fatto Barack Obama nel corso dei suoi due mandati. Pensate che le aziende americane hanno creato 15 milioni 800 mila posti di lavoro dall'inizio del 2010. Dal 2010 gli Stati Uniti hanno fatto tornare al lavoro più gente di tutti i paesi del G7 insieme. Questo con grande soddisfazione lo ha espresso il gruppo dei consiglieri economici appunto della Casa Bianca. E questo ancora una volta a sottolineare quanto sia migliorata l'economia americana in questo lungo periodo. Non abbiamo ancora Valsani, non si capisce per quale motivo non riusciamo oggi a avere appunto un collegamento telefonico adeguato. C'è ancora un ulteriore commento della Casa Bianca. Sempre rispetto a questo dato, ve lo leggo: grazie alla forte risposta alla crisi e alle politiche portate avanti durante gli 8 anni della presidenza Obama, l'economia americana è più forte, più resistente, meglio posizionata del XXI secolo. Marco, eccoci. Intanto che riprendevamo il collegamento con te, ho letto anche i commenti che ha fatto il gruppo dei consiglieri economici appunto della Casa Bianca, che naturalmente non poteva che essere estremamente soddisfatta, gongolando anche un po' di questo bilancio appunto di questi 8 anni di amministrazione di Barack Obama. Ti lascio completare il tuo ragionamento. No, scusate per le difficoltà di collegamento. No, mi hai tolto le parole di bocca, esatto, col comunicato, nel senso che appunto, come hai ricordato, ha consentito alla Casa Bianca di celebrare, di dare il proprio commiato così a 8 anni di governo con un dato che è stato definito complessivamente da tutti solido e che sto preso anche bene dai mercati. Jason Furman, il consigliere economico della Casa Bianca, ha ricordato come appunto nel corso della ripresa ormai siano stati creati dal settore privato americano quasi 16 milioni di nuovi posti di lavoro e come ricordavate voi, appunto, il tasso di disoccupazione è comunque più che dimezzato dai picchi della recessione, quando aveva toccato appunto il 10%. Questo potrebbe consentire anche alla Federal Reserve di rimanere così convinta del proprio cammino di normalizzazione della politica monetaria, per evitare comunque squilibri sui mercati e squilibri, diciamo, in generale nell'economia, troppo accomodanti. Ecco, però detto questo rimangono delle incognite sul mercato del lavoro e sulla ripresa americana. Nonostante uno degli aspetti più positivi di quest'ultimo dato sia stato un incremento dei salari, esatto, su base annuale del 2,9%, che è altro fattore che peraltro porterebbe quell'inflazione che tanto cerca anche Donald Trump. Esatto, è sicuramente un dato benvenuto anche dall'amministrazione entrante, benvenuto per tutti, perché comunque potrebbe appunto spingere così un tasso di inflazione più salutare. Però questo aumento del 2,9%, che è un aumento medio, poi nasconde quello che è comunque il tema centrale che rimane aperto in questa ripresa, e cioè le forti tensioni interne, la sperequazione e le diseguaglianze interne, perché comunque gran parte delle assunzioni anche in dicembre sono state in settori a compensi molto bassi, dove gli aumenti invece sono stati molto più vicini al 2% che non al 2,9%, e quindi diciamo così che anche a dicembre, anche con questo dato positivo complessivo, i problemi, le sfide di una ripresa che comunque fatica a risanare nell'insieme il sogno americano, cioè le aspettative di un ritorno di benessere complessivo e generalizzato rimangono aperte. Intanto, Marco, vale la pena magari fare una sottolineatura sull'ennesima sortita di questi giorni del signor Trump, sempre a dare addosso all'industria automobilistica, proprio peraltro alla vigilia dell'apertura del Salone dell'Auto di Detroit, dove le grandi case si confronteranno per la prima volta pubblicamente con la possibile nuova politica commerciale del presidente eletto. Prima è toccata a General Motors, poi a Ford, che è stata costretta ad annullare la costruzione di una nuova fabbrica in Messico e destinare invece lo stesso investimento più o meno ad espandere lo stabilimento di Flat Rock in Michigan. Oggi è toccato ai giapponesi di Toyota. Sì, Trump è abbastanza incontenibile, come sottolineavi, è diciamo una strategia di pressione e di immagine anche, non solo di sostanza, come appare abbastanza evidente, in cui questa volta rivolti i propri strali contro la Toyota con accuse simili a quelle, tutto sommato, già a GM, anche a Ford in precedenza, cioè di in qualche modo avvantaggiarsi della generosità americana, di poi importare vetture dal Messico, come è stato anche appunto nel caso di GM, di avvantaggiarsi di benefici fiscali e quindi in qualche modo di rubare posti di lavoro agli Stati Uniti. Una strategia d'immagine che è abbastanza incontenibile, che bisognerà vedere come potrà continuare poi a gestire una volta arrivato alla Casa Bianca, per mantenere così rapporti comunque con la corporata media, che siano un po' più lineari e forse meno occasionali e meno legati così a quelle che sembrano anche dichiarazioni estemporanee. Per il momento però ha sicuramente avuto ragione, perché come dicevi le aziende comunque americane, non solo, anche internazionali, stanno cercando di rispondere così in modo diplomatico e anche di tenere conto proprio delle osservazioni di Trump. Ecco, se posso aggiungere una cosa anche di costume, per dire che la Toyota è anche in buona compagnia generalizzata. Uno degli ultimi attacchi di Trump, nonostante tutti i suoi vari impegni, è stato anche nei confronti di Arnold Schwarzenegger, comunque repubblicano, perché Trump si è sentito colpito nel vivo dal fatto che la sua ex trasmissione televisiva Apprentice, oggi viene gestita, è il conduttore è Schwarzenegger, e i rating stanno andando male, quindi diciamo Trump si è risentito, ha avuto modo di twittare anche su questo. Vabbè, abbiamo già capito che tipo di mandato sarà questo. I commenti su Twitter, se non rifermano di nuovo, non mancheranno. Marco, grazie. Buon lavoro. Grazie. Buonasera, buona serata. Adesso di nuovo un cambio, come sempre, di programma. È tempo di raccontarvi la giornata di borsa. Beh, insomma, questa è pure il botta risposta con Arnold Schwarzenegger. Allora, Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Milano più 0,23% sul finale, si chiude una settimana che vede Milano però portare a casa un incasso del circa 2,2%, 2,3%, quantomeno recupera un pochino di quanto perso l'anno scorso. Occhi puntati sul dato americano, lo abbiamo commentato a lungo. Andrei direttamente con te, Andrea, sui fatti del giorno, cominciando con Fiat che brilla ancora a Piazza Affari, anzi si deve sempre dire Fiat Chrysler adesso, più 7% e porta con sé anche la holding di casa, la Exor, più 3,46%. Cosa è successo oggi? Sì, per quanto riguarda Fiat siamo ai massimi dall'agosto 2015, quindi siamo ai massimi da 17-18 mesi. Oggi sono arrivate raccomandazioni positive da parte di Goldman Sachs e da parte di Evercore, un paio di broker quindi pesanti soprattutto sul mercato americano, che non nascondono i possibili rischi sul mercato dell'auto soprattutto negli Stati Uniti, che potrebbe aver raggiunto una fase di picco, e anche i dubbi sull'indebitamento elevato di Fiat Chrysler. Tuttavia continuano a scommettere sull'andamento del gruppo, sottolineando un aspetto che era già emerso qualche giorno fa con i dati sulle immatricolazioni americane, cioè sul miglioramento del mix di vendita da parte di Fiat Chrysler tra automobili in vendita con maggiori marginalità e diciamo una minore propensione alla vendita di automobili con minori profitti, come per esempio le flotte aziendali. Sul mercato americano Fiat Chrysler viene da 3 mesi di correzione, una correzione che non è al momento giudicata preoccupante e che in una giornata positiva complessivamente per il settore auto europeo in borsa ha dato la spinta, grazie a queste raccomandazioni dei broker, al titolo della casa, certo, italoamericana. Allora, se abbiamo una regina di questa prima settimana del 2017, sicuramente la corona dobbiamo metterla al banco BPM. Sì, ha guadagnato quasi il 30%, 29% circa dal prezzo segnato in apertura del primo giorno di quotazione, che rappresentava l'esordio per il titolo del nuovo gruppo bancario. Anche oggi volumi importanti, il 4% circa scambiato in borsa, in un momento di recupero complessivo del settore bancario, anche se oggi il comparto ha viaggiato, diciamo così, un po' con un andamento ambivalente, viste le correzioni che hanno interessato soprattutto la Popolare dell'Emilia Romagna e UbiBanca, anche perché sono due titoli che hanno corso bene, non come Banco BPM nella prima settimana dell'anno, ma che sono attese al test dell'acquisto delle cosiddette banche ponte, cioè le quattro banche che erano state salvate alla fine del 2015 attraverso il meccanismo del fondo di risoluzione. All'inizio della prossima settimana si chiarirà se ci sono offerte alternative, se non ci sono, come si ritiene probabile, si andrà alla procedura per la cessione di queste banche, 3 a UbiBanca, 1 Cari Ferrara, probabilmente alla Popolare dell'Emilia Romagna. C'è il traffico adesso, tra poco. Focus Economia. Ancora con Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Andrea, tra poco devo andare a raccontare le ultime novità di casa Alitalia, per cui come ultimo commento ci teniamo, adesso do la carrellata dei peggiori, ma ce ne teniamo uno con te. Saipem, peggior titolo, meno 1,8 insieme ad STM, Popolare dell'Emilia Romagna, ne abbiamo parlato, meno 1,49, Poste Italiane, meno 1,41%. Allora qua vorrei un po' raccontare con te, c'è questa inchiesta pubblicata oggi da un grande quotidiano sui fondi immobiliari distribuiti da Poste e che starebbero provocando forse l'ennesimo nuovo caso di risparmio tradito in Italia. Volevo anche segnalare, a beneficio dell'attività che facciamo qua dentro, che sono casi su cui da mesi scrivono Gianfranco Ursino, Stefano Elli del Sole 24 Ore e che oggi hanno il grande clamore perché vengono queste notizie pubblicate da altri quotidiani. Ci dispiace un po', così un po' piccata, lo volevo segnalare. Detto questo, per oggi Poste pagano in borsa. Andrea. Sì, sicuramente, diciamo, è difficile, così dicono gli analisti, questo è il caso di quattro fondi immobiliari collocati tra il 2000 e il 2005 che invece avrebbero subito performance importanti e su cui, secondo le indiscrezioni, sembra possa esserci un ragionamento anche in termini di risarcimento per i risparmiatori in atto da parte di perché ormai si viaggia così, si investe in prodotti che non si capiscono, poi si interviene per risarcire tutti. Ormai la moda comincia a diventare questa, non so se neanche vada bene. Detto questo, magari me ne occupo in un altro programma. Andrea. Sì, sicuramente l'aspetto significativo di questo calo di oggi in borsa non è tanto l'impatto economico su Poste Italiane, così sottolineano almeno gli operatori e gli analisti, quanto, diciamo così, un impatto negativo in termini reputazionali che questa operazione può avere su un titolo che peraltro sta soffrendo anche una fase di debolezza, anche perché ci si aspetta, come il ministro Padoan ha annunciato alla fine dell'anno, proprio in un'intervista al Sole 24 Ore, che presto si riproceda al collocamento della tranche di capitale in mano al Tesoro, che è quasi il 30%, per cui è un titolo che sta aspettando questa operazione, ma che sicuramente subisce oggi non tanto un effetto economico diretto su Poste, quanto, diciamo, una componente, diciamo, reputazionale che questa vicenda dei fondi immobiliari sta avendo. Certo. Andrea, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di Epifania. Buona serata. Buona serata a voi. L'ultimo tema di stasera. Sarebbe proprio il caso di dire, in queste circostanze a volte ritornano, e torna con noi Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera. Ogni tanto ti tocca ritirare fuori dal tuo preziosissimo archivio storie vecchie che ridiventano di grande attualità, e ancora una volta dobbiamo ritornare a parlare di un nuovo, non chiamiamolo va salvataggio, anche se qualche giornale questo termine lo usa, ma di un nuovo ennesimo piano di ristrutturazione per Alitalia, che non dobbiamo più chiamare compagnia di bandiera perché al 49% è posseduta da Etihad, e però di fatto chiude il 2016 con un bilancio in profondo rosso. Sarebbero necessari almeno 4.000 esuberi su 11.000 dipendenti, e qua si riparte, Gianni, a partire dai prossimi giorni con nuovi round di incontri con il governo, con le organizzazioni dei lavoratori, che naturalmente a questo nuovo piano, che forse lacrime e sangue, si oppongono ovviamente. Detto questo, raccontaci un po' cosa sta succedendo. Poi un'altra cosa che mi faceva riflettere, che si sta parlando forse della necessità, lo scrivi anche tu sul Sole 24 Ore, di questo sdoppiamento della compagnia. Mi ricordo in passato quando parlavamo della good company e della bad company, adesso la situazione è diversa, ma un'altra necessità di spacchettarla questa azienda c'è, mi pare, Gianni. Le due compagnie, e questo è uno dei pochi punti che sembra chiaro nel piano industriale o piano di ristrutturazione, risanamento, come lo si voglia chiamare, che sta prendendo forma. Un piano che è stato annunciato, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione all'Italia pochi giorni prima di Natale. In realtà questo piano non esiste, perché esiste solo poco più della copertina. È un po' come certe leggi importanti quando vanno al Consiglio dei Ministri, si approvano ma poi bisogna scriverle. E questo è curioso, ma è oggetto proprio di un braccio di ferro, di una forte incertezza nei lavori che si stanno facendo dentro la compagnia, ma con un azionariato che è composto, oltre che dagli arabi emiratini di Etihad, che sono il socio forte, anche se sarebbero solo con il 49% e non proprio la maggioranza assoluta, e poi ci sono le banche italiane, Unicredit, Intesa San Paolo, le assicurazioni generali, che non sono azioniste ma hanno sottoscritto delle obbligazioni, un bond di 300 milioni, e gli si chiede di convertirlo in azione, cioè rinunciare a incassarlo e avere delle azioni di una società che oggi perde molto, e quindi azioni che è un po' una scommessa pensare che domani possano avere un valore, come lo fu nel 2014, anche allora. Quindi è proprio un copione già visto, e i risultati, diciamo che i risultati di questi anni sono stati molto peggiori delle previsioni, perché il piano presentato nell'estate autunno 2014 prevedeva al terzo anno della nuova Alitalia, che è il 2017, di un piccolo utile, 40 milioni, qualcosa di più. Invece le previsioni dicono che quest'anno l'Italia potrebbe perdere più di 500 milioni, ne ha persi 450 l'anno scorso. Allora, cosa si pensa di fare? Ma l'idea è quella di dividere la compagnia in due parti, per avere un'attività nel breve raggio, che sono poi i voli fino a tutta l'Europa, quindi breve e medio, con una struttura vicina, io dico vicina perché replicare una low cost all'Italia mi sembra molto arduo. Però non è stato chiarito ancora come, perché ci sono tanti modelli di low cost, c'è quella più nota, Estrema, Ryanair, c'è quella un pochino più addolcita, EasyJet, ma ce ne sono anche altre. Quindi comunque più del 50% delle rotte che fa l'Italia nell'ambito europeo sono replicate da Ryanair, quindi certo, il suo concorrente diretto quello è. Dovrebbe abbassare poi tra l'altro i costi dei tragitti in maniera bestiale. Ma anche il livello di servizi degli aeroporti. Io certamente tra perdere 500 milioni e battere la Ryanair ci possono essere delle vie intermedie, molte vie intermedie. Questo è il vero rebus. Certo. E non credo che basteranno un incontro, due o tre, sarà un percorso lungo. Il fatto è che nel frattempo, doloroso, ma l'Italia brucia cassa, quindi a breve avrà bisogno di altri soldi. Le è banche vero che ha scongelato solo due mesi di autonomia? Sì. Le banche hanno scongelato una linea di credito già concessa, ma che avevano bloccato, 180 milioni in tutto, ma intorno a metà marzo, secondo le proiezioni, questi soldi saranno finiti. Cosa è successo peraltro? Come mai si è ritrovata in questa situazione? Perché io immagino che quando gli arabi appunto di Etihad sono entrati non immaginavano certo di avere a che fare con un quadro in prospettiva così problematico, no? Patisce appunto le low cost all'Italia, c'è anche dell'altro, perché in passato abbiamo raccontato più volte magari di gestioni non proprio oculate dell'azienda, e qua toccherebbe richiamare alla memoria anche manager di un certo profilo, ma diciamo che lascio ricordarlo a te se vuoi, già. Anni. I problemi degli ultimi due anni quali sono stati? Ma io vedrei, io credo che anche adesso, anche in questi ultimi anni, ci sia stata una conduzione, una gestione come strategia non adeguata. Non indovinata, non adeguata. Capire dall'esterno quali sono i mali, quali sono i problemi, non è semplice, oppure potrebbe essere troppo facile liquidarlo con poco. Quindi io non voglio entrare in questo esercizio, anche se seguo l'Italia da molti anni e ero scettico sul fatto che l'arrivo di Etihad, come veniva presentato questo piano, potesse risolvere i problemi. Vedo che i risultati sono effettivamente forse anche peggiori delle più diciamo aspettative più negative, ma essenzialmente l'errore di base che all'Italia, la nuova Alitalia, ma anche quella diciamo dei precedenti, quando anziché vendere Air France nel 2008, che forse sarebbe stata l'opzione industriale più sensata in quel momento, fu per l'intervento di Berlusconi data a una compagine di azionisti cosiddetti patrioti, guidati anche allora da una banca, Intesa San Paolo, anche se con un altro manager che era Corrado Passera, che oggi non c'è più. È stato quello di non capire che l'attività di Alitalia è concentrata prevalentemente nei voli, diciamo nel breve medio raggio, quindi entro l'Europa e nazionali, che sono il settore nel quale la concorrenza del low cost è aumentata, e anche quella del treno, se guardiamo ai voli italiani. Mentre i voli a lungo raggio sono stati più sacrificati, non c'è stato lo sviluppo, ed è il settore nel quale questa concorrenza non c'è. Certamente c'è quella delle altre grandi compagnie, Lufthansa, Air France e altre. Quindi questo è mancato. Perché è mancato? Per investire nel lungo raggio ci vogliono molti soldi, perché gli aerei, bisogna avere aerei, e l'Italia aerei oggi ha solo due aerei a lungo raggio in più di quelli che aveva tre anni fa, mentre le compagnie aggiungono due, tre, quattro, cinque aerei a lungo raggio ogni anno. Per cui credo che questo, se l'Italia vuole resistere o vuole sopravvivere, debba trovare questo sviluppo, ma anche un modo di alimentare questi voli con la rete nazionale ed europea a costi molto più bassi, ma anche con un'efficienza e un servizio che oggi non è in grado di offrire, perché la logica dei tagli ha portato a ridurre molte rotte, per cui oggi quando tu vuoi andare, non vuoi andare in una grande città, una grande capitale europea, tu difficilmente trovi un volo all'Italia e invece trovi più convenienti sia come orari, esatto, non solo come prezzi, voli, cioè, di non è che compagnie. non lo trovi tanto conveniente. Grazie a Gianni Dragoni. Peraltro, Gianni, in un secondo, allora lunedì c'è l'incontro col governo, non c'è Gentiloni, chi incontra Montezemolo? Ma al Ministero dello Sviluppo Economico, ecco, ci sarà Calenda, ex dipendente di Montezemolo alla Ferrari, peraltro. Eccoci qua, devo chiudere. Grazie a Gianni Dragoni, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'aiuto in redazione questa settimana, Filippo Aureggi in regia. Io torno lunedì con Nicoletta Carbone a Cuore Denari. A tutti buon weekend. Radio 24, libera la voglia di fare.